che mi più. Non c'è dottore. Se non è che ne ha fatto uno scherzetto che si è staccata la corrente. Perché non ci sento più io. Ma mi sto dicendo claro. Ho detto, c'è il Paul, vuole il freezer. No, c'è il corrente di madre che si cazzate le mie mani. Che vi muoce il mondo della terra. Capite? Stiamo ascoltando una cogliata di quelle che vanno grandi, no? Per non ammettere che qualcuno gli ha dato una cosa, allora. La gente c'è una coglionata. Cosa stai dicendo, frate? No, niente, ti stavo dicendo se l'ascoltava Luca che pensava che lo stava facendo, Luca invece sta facendo, capito? Siccome il pronto preso e cucinato non è che sia questa granché, ma se in freezer un po' si ammorbidisce, più morbido, più tenero. Allora, l'ho preso ieri mattina, un po' più caro, era il pescatore proprio, non mi prendo pescherie, uno che passa lì con la macchina in via Pascoli, se non sempre lì a prendere il pesce, mi chiamano, scendo, poi... Poi ho messo in frigo, i calamari li ho messi in frigo, li faccio questa settimana. E poi quello che voleva fare oggi, e quindi l'avevo pulito ieri e ho messo in frigo, no? E se lo metti in frigo poi perde. Poi perde. Per essere buono addirittura quello che ho fatto con l'acqua di mare. Ma. E poi il problema è che c'è molto da pulire, io gli giro la testa e tolgo quello che c'è dentro. E basta, non è che stai lì a tirare molla, a tricche ballate, capito? Che vabbè, no, stavo, mi sono distratto perché c'ho la torre accesa, stavo ascoltando una cosa che mi ha un po' così, perché all'interno di stanza 3 si sente un pezzo, lui lo dice. La tricche di trovi battente, buone di giorno, che vende. Adesso non prende nella casa che sta buono. Si intende, guarda il martino. Vedi, già si intende. Già va bene. Comunque. Ricordami poi quando ti vedo, te lo dico, fa che quello che ho sentito poco fa. Boh, che cose strane che si sentono, pezzi. Questa goccia mi tira per i dai, no. La tutta fa un oggetto. E non si immaginava che fa sopra, Sì, mamma mia, allora ci mettete, allora ci mettete, tutti c'è la coscienza a posto, non c'è niente da rimanere nessuno. Vabbè. Quando hai una cosa che ti ha volato, che non mettere tra una volata, invece di stare a dire tra tutti, io la più vicina. Sto dicendo lui, ma sono niente al telefono in casa. No, al telefono in casa ti ha chiamato Sergio. Fugge, non defugge tutto. Forse al telefono. Forse al telefono, capito? Sono al telefono, non c'è problema. Uia. Va bene. Dice a me. se non va bene la modostia, ma cosa c'è? Fatti vedere che domani lui è a casa, Claudio. sono a riposo, capito? Sono a riposo al domani. E quindi non so, non ci scendo a Sindoli domani. Dopo domani, se sono in zona, già passo a trovarti altro. Purtroppo quando passo lì sono sempre in fretta, capito? Sono sempre in fretta. E quindi restiamo così, però se ho 5 minuti già passo a trovarti. Ciao papà Conero, ha detto tutta dopo domani che l'ho detto, gli avrei copiato, tu glielo senti. Lui non ti sente, c'è il QRM7. E niente, tutta dopo domani se ce la parla 5 minuti se trova via vedete qua la vista. Capa non glielo fa Conero. Va bene. No, non lo sento, stamattina ci ho parlato. Già mi sente, lui mi sente anche bene, ma non c'è mai un filo di QRM. Quando c'è il QRM, allora non arriva, perché 5, 4, 5, capito? 4, 5 arriva qua da quel QTA, che è circa 70 km da Sassari, lui, capito? È positivo. Beh, va bene, comunque è tutto ok, va bene. Ehi, no, non ci arriva, è una settantina di chilometri da Sassari, già va bene, non c'è problema. Luca, dove sei Lucas? Scusate per poc'anzi, ho volontariamente messo tutto sul tasto, buonasera a tutti. Chi è? Ma c'è Sandro. Ah, Sandro, Andrea, Tigre, come te stasera? No, come siamo? Diciamo bene, no? Diciamo... Eccolo qua. Ho fatto un ghippo, Claudio. Ecco, io mi tiro la mano sul microfono, non riesco più, per carità. E cosa dovrei dire? Guarda, mi sto prendendo la caffeina. Non te la posso offrire al momento, se no te la vorrei anche offrire. Sì, ma io stamattina cosa ti ho detto, Sandro? Cosa ti ho detto? Ti ho detto, guarda, te ne accorgi se manca la massa dal microfono alla radio, perché se tu appoggi la mano non fischia più. Quindi è come ti ho detto io, devi prendere un filo e portare dal jack, quindi dallo spinotto del piantone del microfono allo spinotto che attacca la radio, capito? stato ogni tanto non esce fuori qualcuno a cacchio. Ok, va bene. Sì, Claudia. Dopo va, domani inizia di nuovo la battaglia. Domani tocca battagliare di nuovo. Vabbè, tu sei a riposo. Io che non faccio riposo, me ne sono dimenticato. Vabbè. Che c'era poi, che adesso non mi ricordo un attimo. Marchetto Sandro, ben sentito Sandri. Prendi con Marchetto un secondo. Poi mi dici quanto ti sto arrivando, Sandro, che sto usando l'efficace. Dimmi quanto ti sto arrivando, poi prendi con Marchetto un secondo. Ok. Allora, qua stai arrivando con picchi di 9,20. Cioè picchi positivi a 9,25, fibrazione sempre 5, bella pimpante. Cioè, 9,20 con picchi a 9,25 a Colo Torres, praticamente un segnale locale, va bene. Oggi funziona ancora questo trigger baracche. Riprendi con un attimino con Sandro che vanno a vedere se si è la posizione del corpo. Cava. Ma io come ti arrivo lì, Sandro, quando ti arrivo? Chiedo scusa lì a Claudio, perché io qua per non sentire QRM tutto quanto, quindi mi ha battuto un bel segnale. Quindi devo aprire una cosa, non devo aprire. E prova qualche. Ho detto come ti arrivo con le coordinate, Sandri. Ma qua sta arrivando con 9,95 e con picchi a 9,10. La radio è buona? Ma la radio c'ha, è buona, è comprensibile, c'ha un po', sembra come un po' di effetto camera. Comunque è abbastanza comprensiva, eh? Sì, tranquillo, va più che bene. Va bene. E allora, Sandri? Stiamo prendendo la caffeina, così? Sì, ho fatto... stai zitto. Ho fatto una piccola pennichella, dove ne approfitto, faccio le pennichelle. Perché per questioni di tabacco, delle volte, è raro che riesco a fare tutto quelle dormite. Ci vediamo avanti. È positivo. Va bene, una piccola pinichella poi per il discorso tabacco, ovviamente ci vuole un po' sempre di riposo, perché alle volte si deve fare notturno, diurno, quello che è, viene un po' pesante, cioè se non si è riposati. Claudio, è terminato? messaggio per avere un attimo proprio un segnale. Guarda, valore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vieni a vedere se c'ha picchi positivi e quanto è il segnale lì a Purgatoris. Guarda, valore. Ok, adesso ci siamo. Allora, c'è il segnale fisso 9 più 20 con picchi a 9, 30. Negativo da parte mia. Cosa c'è, Gigi? No, sto controllando pure io. Buonasera. Sto controllando, Claudie. Quando schiacci la portante sei 9.30, come modo scendi a 9.10, da fai da 9.10 a 9.30. Come parli scendi indietro a 9.10. L'importante portante bianca c'hai sei 9.30 da me. Come moduli va a scendere quasi a 10, a 9.10. Stavo guardando un po', no? Mettermi dai picchi negativi, non lo so. Mentre c'è la sala sui positivi. E aspettate come sono, com'è il picchio? Positivo o negativo? Guarda me. No, picchia bene, positivo, positivo. Positivo, positivo. Gigi, sicuramente ti hanno fatto quella regolazione che tu sai, no? E giustamente lo strumento te lo deve leggere. Che non sia un pochino starato. E quindi ti dà questo vai e vieni del microfono, capito? Cioè dello smicker. Che io, la radio non è al massimo. La radio è sempre alla potenza sua. È che ho dato un po' più di gas dall'amplificatore, quindi chiaramente a portatore sto arrivando quasi 9 più 30, ce l'ho davanti. Se ci fosse stato più angelo con 4,40 avremmo visto a vedere quanto era lì a bandiera, se i picchi erano positivi o negativi. Vabbè, ma non è un problema. E che si fa tende, Gigi? Riparando cosa? Positivo, Claudio. Ho acceso l'altro perché ti volevo vedere anche con l'altro ed è negativa la cosa, anche questo. Anche questo non è positivo, è negativo. E anche quello c'è lo stesso lavoro che hai fatto e quindi da quel pomerino arrivati tutte le varie tue c'hanno quel lavoro, no? Aspetta, non ho capito cosa hai detto, Cla, scusa, non ti stavo seguendo. Ho detto anche questo, che il peccatore c'ha lo stesso lavoro dei fatti, così è. Sì, anche questo c'ha lo stesso lavoro dei fatti, anche questo. Non è per attaccarne uno che non c'abbia quel lavoro per vedere se è quello lì. Per fare quel lavoro l'hanno fatto a te, bisogna toccare l'oscillatore. E quindi sicuramente quando usi quella potenza che vale più di quel seminale che ti hanno parato lì, allora lo smitter va in negativo. Ma non è niente, nessun problema. E invece la Sandro che ha la radio più o meno come la mia è in positivo. Da parchetto sono stabili. Vabbè, dai, non è un problema, Gigi. Ma poi la tese fratelle, cosa stai manovrando lì? Stavo svoltando una cosa lì che mi serviva un pezzo e niente, dai. Gappa. Non c'è problema, va bene. Mentre invece quella di saldo, guarda. Adesso riabbasso. Ecco qua. Invece così quanto è il segnale? 9.10. Ma diciamo che poco la variazione. Portante fisso 9 più 20, con picchi positivi 9 più 25. Ok. Mentre l'altro dice invece così, che ho diminuito la potenza adesso, guarda, dovrebbe essere sempre in negativo. Io voglio vedere una cosa, perché sicuramente, come ho detto io, quando superi quel segnale lui non te ne segna più, mentre invece quando rimane dentro quel segnale allora dando anche sempre il negativo, allora sono questi apparati sicuramente, dai. Il radio è tutto quanto ultimo, non c'è da dire niente, però allora, sono questi che che danno il negativo, non lo so, che quando parlate mi dà il negativo, dai. No, sono il positivo, vai Gigi, tranquillo, che Claudio era tutto sotto controllo, sono avrei detto. Sì, ma non è un difetto, è una rilevazione che hanno fatto Gigi, quindi la notte la futina. Va bene così, tu segnerai la portante multa e vedrai che non ti sbagli. È una rilevazione che hanno fatto, che quando fanno quelle modifiche lì sull'oscillatore praticamente starano un po' lo smitter per poi regolare la potenza, capito? E quindi automaticamente non segna più come deve segnare, ma non è un difetto, niente di particolare. Va bene, avanti Falco della montagna, Milano. Tappone, è tutto positivo, dipende anche dagli apparati, a volte apparati ti danno segni di picchi negativi e niente, dipende sempre dall'apparato. Sì, ma sono le regolazioni che fanno, degli accorgimenti che fanno per far sì che lui, quando abbassa e solleva la potenza, lo smitter diventi, nonostante sia un segnalatore di ricezione, diventi allo stesso tempo un segnalatore anche di watt. E quindi per fare questa modifica le starano leggermente l'oscillatore e quindi non diventa più perfetto, ti dà la posizione della ricezione sul segnale in ricezione a portante muta. Quando tu parli lui si sposta perché chiaramente hanno starato l'oscillatore perché serve a lui per fare un'altra cosa, ma non è, ripeto, un difetto, è un lavoro che vuole fatto così. Altrimenti lui non avrebbe neppure la possibilità di potersi regolare il watt e vedere se la potenza è giusta, capito? Tutto lì. Non problem. Avanti Sandro Tigre. Un attimino che sto facendo il collegamento qua. Fai, che già non si sente nessun fruscio. Siamo qua, fai come ti dice zio Claudio. Che una stronzatina vedrai che non te ne dà più problema, metti il cavetto dentro la spinale, lì, cavettino di quelli neri, ho usato sempre, non si vede neanche, confuso con quello della spirale, e tu vedrai che non dà nessun problema, proprio la mancanza di, c'è un contratto di massa tra il microfono e la radio essendo più grande, avendo più piano di massa riceve una portante come massa inferiore, automaticamente va in contatto e ti dà il fischio.